Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa giornata di venerdì 7 febbraio. L'Italia si risveglia con questo incidente ferroviario ad alta velocità, si risveglia naturalmente col problema del coronavirus e col diktat del 5 Stelle, Italia Viva, i Viva i 5 Stelle sulla prescrizione. Tutto questo parleremo naturalmente in rassegna stampa, per adesso comunque Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Algeria, amnistia di massa, il presidente cerca il dialogo con i manifestanti. Pakistan, evade il talebano che sparò a Malala Yousafzai nel 2012, ucciso dagli americani, leader di Al-Qaeda in Yemen. E ancora coronavirus, decine di fiere sospese in Asia. Colombia, al cancro, porta via il sicario del re della droga Pablo Escobar. E le mutilazioni genitali femminili sono più comuni di quanto si pensi. Venezuela, la Russia biasima gli Stati Uniti per le sue provocazioni e Germania trema il Parlamento del Land dell'Est. Ma abbiamo Paola Mirenda in collegamento da Lipsia. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con lo Yemen. Le forze americane hanno ucciso, l'ha annunciato il presidente Trump dalla Casa Bianca, Qassem al-Rimi, capo di Al-Qaeda nel paese. Non ha fornito dettagli sull'operazione, ma settimana scorsa è stato registrato un bombardamento via droni. Solo 5 settimane fa moriva invece a Baghdad, in un altro omicidio mirato, Qassem Soleimani, generale iraniano. Iraq, manifestanti in piazza a Baghdad in solidarietà con le proteste di Najaf represse dalle milizie sciite di Muqtad al-Sadr che 2 giorni fa hanno provocato 8 morti. Il giorno dopo il massacro nella città di Najaf, i seguaci del religioso sciita, nazionalista e radicale sono stati accusati di un nuovo assalto, questa volta nella città santa di Karbala. Almeno 10 manifestanti sono stati uccisi in piazza Educazione. Le vittime dell'assalto di Najaf sono salite a 23 e 197 i feriti. A Bassora uomini armati sconosciuti hanno ucciso al-Sheikh Hazim al-Alfi, un leader del movimento di Sadr. Stava tornando a casa dal lavoro in un veicolo immatricolato dal governo quando si è verificato l'attacco. Non è chiaro se l'assassinio sia legato all'attacco di 2 giorni fa ai manifestanti di Najaf. Sadr sostiene da tempo il movimento antigovernativo, tuttavia recentemente è uscito contro le proteste poco prima che fosse annunciato un nuovo candidato a primo ministro, Muhammad Alawi. Invece vicino a Mosul i manifestanti hanno chiesto il ritiro delle forze di mobilitazione popolare dalla provincia di Nineveh e hanno chiesto all'esercito iracheno di sostituire i miliziani. Turchia, aereo della Pegasus Airlines fuori pista a Istanbul 2 sere fa durante le manovre di atterraggio. Il bilancio aggiornato è di 3 morti e 180 feriti, 4 dei quali gravi. Sempre in Turchia sale anche il bilancio dei morti per le valanghe, 39, e ancora 2 dispersi nella provincia orientale e montana di Van, dove un autobus è stato travolto da una slavina martedì e poi un'altra il giorno dopo ha travolto i soccorritori, 75 feriti tratti in salvo. Israele, Palestina, le brigate di Al-Quds, l'ala armata della Jihad islamica, hanno invocato attacchi contro posti di blocco militari israeliani. Intanto tra mercoledì e giovedì sono 5 palestinesi uccisi, mentre 26 sono i soldati rimasti feriti durante scontri esplosi in un picco di violenza innescato dal piano del secolo di Trump. Tra loro a Gerusalemme un cittadino arabo-israeliano è stato ucciso dopo che aveva ferito una guardia all'entrata della città vecchia. Il secondo, un ragazzo di 19 anni, è morto durante scontri con i soldati a Jenin. I palestinesi avrebbero lanciato pietre ai soldati che arrivavano per demolire la casa di un palestinese coinvolto nell'omicidio di un colono ebreo nel 2018. Giovedì all'alba invece un palestinese con la macchina si è lanciato contro un gruppo di soldati a Gerusalemme Ovest, ferendone 12, ed è stato arrestato. È un 25enne residente a Est. Libia, le milizie del generale dissidente Haftar hanno catturato la città di Sirte. Algeria, il presidente Ahmed El Majid Tebboune ha graziato ieri più di 6.000 detenuti, estendendo un processo di clemenza che ha superato in scala gesti simili concilianti dei suoi predecessori. Tebboune, eletto a dicembre con un voto respinto dal movimento di protesta di massa in cerca della sostituzione totale dell'elite al potere, sta cercando di reprimere quasi un anno di disordini politici. L'amnistia di massa di questa settimana segue un'offerta di dialogo con i manifestanti, il rilascio dei detenuti arrestati durante le manifestazioni, la formazione di un comitato per modificare la Costituzione, incontri con le figure d'opposizione. Insieme ai 3.471 prigionieri rilasciati all'inizio di questa settimana, Tebboune ha ora graziato quasi 10.000 prigionieri con condanne di 18 mesi o meno. Stai ascoltando Radio Bullets. Il ministro delle finanze scozzese si è dimesso poche ore prima di consegnare il suo budget annuale, dopo aver riferito di aver inviato centinaia di messaggi a un ragazzo di 16 anni sui social media. Derek McKay ha dichiarato che si è comportato in modo sciocco e gli dispiace davvero. Il giornale Scottish Sun riportava che McKay aveva inviato all'adolescente oltre 270 messaggi su Facebook e Instagram dicendo al ragazzo che era carino e offrendosi di portarlo a una partita di rugby e a cena. McKay, 42 anni, non è accusato di aver infranto la legge, ma il leader del partito laburista scozzese Richard Leonard ha affermato che il suo comportamento è stato a dir poco predatorio e un abuso di potere. E andiamo in Germania, il gruppo parlamentare della FDP della Turingia vuole presentare una mozione per far sciogliere il Parlamento regionale del Land dell'Est e arrivare a nuove elezioni. Il presidente avrebbe intenzione di dimettersi, ma in collegamento da Lipsia abbiamo Paola Mirenda. Ha annunciato le sue dimissioni ieri pomeriggio Thomas Kemmerich, il politico del Freie Demokratische Partei, che è stato eletto presidente della Turingia con i voti dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Le dimissioni tuttavia non sono sufficienti né a indire nuove elezioni per voto del Parlamento della Turingia, né a cancellare l'effetto politico di quanto avvenuto. Oggi ci sarà una riunione nazionale dei liberaldemocratici anche per valutare il futuro di Kemmerich. Solo l'intervento del leader nazionale Christian Lindner lo ha convinto a dimettersi dopo che fino a giovedì mattina aveva assicurato di voler portare avanti il suo incarico. E questo non sarà senza conseguenze per il futuro del partito stesso, persi di dosso lo stigma dello sdoganatore di fascisti. Quanto a Kemmerich, una cosa la porterà sicuramente a casa, un lauto indennizzo che lo Spiegel ha calcolato intorno ai 60.000 euro per un giorno di lavoro. Grazie Paola, e proseguiamo con il Pakistan. Ehsanullah Ehsan, il talebano responsabile del ferimento del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai nel 2012 e la realizzazione del mortale attacco di una scuola a Peshawar nel 2014, in cui morirono 132 studenti, è fuggito dal carcere secondo una clip audio rilasciata da lui stesso, dove dichiara di essere fuggito dalla prigione l'11 gennaio, sostenendo che la polizia pakistana non ha mantenuto le promesse fatte durante la sua resa nel 2017. Non ha rivelato dove si trova, promette un altro audio dove racconterà la sua prigionia. Il governo pakistano o le forze di sicurezza non hanno commentato sulla veridicità dell'audio. India, una bambina di 5 anni è stata stuprata all'interno dell'ambasciata americana da un autista di 25 anni che è stato arrestato e che ora rischia la pena di morte. La bambina è in condizioni stabili. La sua famiglia vive in ambasciata, dove il papà fa parte del personale delle pulizie. In India, secondo una legge del 2018, chi commette crimini sessuali su bambini al di sotto dei 12 anni è prevista la pena di morte. Indonesia, l'amministrazione di West Java lavorerà con una società inglese, la Plastic Energy, per costruire siti di trattamento dei rifiuti che trasformano i rifiuti di plastica in diesel, materie prime. Le strutture, che saranno sviluppate in 5 località, dovrebbero diventare operative entro il 2023. Attualmente l'azienda sta riciclando 5-6 milioni di tonnellate di plastica all'anno e punta 10 milioni di tonnellate entro il 2025. Cina, 636 morti per il coronavirus, superati 30.000 casi registrati in Cina, deceduto il medico che per primo lanciò l'allarme. Prossima settimana, martedì e mercoledì, riunione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un confronto tra gli esperti. Salgono a 61 i casi positivi al coronavirus sulla nave da crociera della Carnival Japan, in quarantena nella baia di Yokohama, al largo del Giappone. L'Air France estende il blocco dei voli in Cina fino al 15 marzo e decine di fiere internazionali di settore in Asia sono state rinviate a causa del virus, con una potenziale perdita di miliardi di dollari in accordi. Il gigante automobilistico giapponese, la Toyota, ha detto oggi che avrebbe chiuso le sue fabbriche cinesi fino al 16 febbraio, prolungando la sua sospensione di una settimana a causa della crescente crisi da coronavirus. Cuba, è stato arrestato l'oppositore Guglielmo Farinas, vincitore del premio Sakharov del Parlamento Europeo nel 2010. Si stava recando all'ambasciata spagnola per ricevere il visto e andare in Spagna e in Belgio, dove avrebbe dovuto incontrare alcuni eurodeputati e rappresentante del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Javier Nino. Venezuela, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha denunciato ieri la politica estera degli Stati Uniti in Venezuela, criticando le provocazioni statunitensi che tentano di creare quello che ha definito un pretesto per l'intervento militare. La Russia e gli Stati Uniti si sono scontrati ripetutamente sul Venezuela, dove le compagnie petrolifere russe e consiglieri militari svolgono un ruolo chiave a sostegno del governo socialista del presidente Maduro. Gli Stati Uniti e decine di altri paesi riconoscono il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, che ha cercato di estromettere Maduro. Washington ha imposto sanzioni sempre nel tentativo di rimuovere il presidente, cosa che Lavrov ha condannato, sostenendo che i tentativi non sono utili, e ha affermato che le minacce di Washington contro il Venezuela sono controproducenti. Colombia, un ex sicario del defunto signore della droga Pablo Escobar, che aveva confessato di aver ucciso centinaia di persone, è morto di cancro. John Jairo Velasquez, noto come Popeye, è morto al National Cancer Institute in Colombia, dove era stato ricoverato in ospedale da fine dicembre. Velasquez aveva ammesso di aver commesso almeno 300 omicidi, affermato di aver contribuito a coordinare la morte di circa 3.000 altri, visti come una minaccia per il cartello di Medellin di Escobar negli anni 80 e 90, trascorso 23 anni dietro le sbarre per aver pianificato l'omicidio di un candidato alla presidenza. Un giudice brasiliano, Ricardo Soares Leite, ha accusato 6 persone di aver violato i telefonini dei pubblici ministeri nel più grande caso di corruzione del paese, ma si è trattenuto per ora dall'incriminare per crimini informatici il giornalista americano Glenn Greenwald, editore della testata online The Intercept, accusato di aver hackerato e pubblicato informazioni che riguardano l'allora giudice Sergio Moro, ora ministro di giustizia. E concludiamo con una gran brutta storia. Sono più di 200 milioni le donne, le ragazze e le bambine che hanno subito mutilazioni genitali in 30 paesi del mondo. Più della metà avvengono in 3 paesi. In Indonesia quasi la metà delle ragazze sotto i 12 anni hanno subito una qualche forma di mutilazione genitale, e tra loro 3 su 4 hanno subito la procedura quando avevano meno di 6 mesi. In Egitto l'87% delle egiziane tra i 15 e i 49 anni sono state infibulate. In Etiopia 25 milioni di donne hanno subito mutilazioni e il 65% delle donne tra i 15 e i 49 anni hanno subito la procedura, pratica ancora diffusa nell'Africa subsahariana, in Medio Oriente, in Indonesia, ed è stata segnalata in Colombia, India, Malesia e in Europa, Australia, Nord America, afferma l'UNICEF. La procedura differisce in ogni parte del mondo. Almeno 59 paesi hanno approvato leggi contro questa procedura, tra cui 26 dei 29 paesi africani in cui le mutilazioni sono maggiormente concentrate, ma in alcuni punti un passo avanti e 2 indietro. Ad esempio, nel 2006 il Ministero della Salute dell'Indonesia ha pubblicato una lettera che proibiva la pratica da parte dei professionisti medici, ma le tradizioni sono dure a morire. Le mutilazioni precedono l'ascesa del cristianesimo e religione dell'Islam e nessun testo religioso richiede questa pratica, affermano le Nazioni Unite, ma alcuni sostengono che esiste un appoggio religioso per l'atto e credono che protegga la verginità di una donna, scoraggiando i rapporti. Mentre alcuni leader religiosi lo promuovono, altri hanno lavorato per porre fine a questa pratica. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con Serena Console e le notizie orientali. Elevator. Ma veniamo invece al terreno della lettura, perché il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che da un lato serve a promuovere la lettura e dall'altro riduce gli sconti praticati dai grandi editori ai danni delle piccole librerie indipendenti. Ne abbiamo parlato con il giornalista libraio Franco Di Battista, ascoltiamo le sue parole. I punti sono due, il DDL intitolato sul libro e sulla promozione della lettura. La parte che riguarda il libro generale è la parte che riguarda la regolamentazione degli sconti, la tanto famigerata regolamentazione degli sconti, che quindi verranno fortemente limitati. Non ci sarà più il tetto del 15%, che si abbassa al 5%, e anche le campagne mensili, le campagne di sconto mensili che molto spesso vediamo nelle librerie, come per esempio in questi giorni ad Elfi, se non mi ricordo male, verranno limitate anche quelle, quindi non ci sarà più la possibilità di fare un 25% di sconto su tutto il catalogo di un editore, ma si abbassa l'incidenza dello sconto e ci sono anche delle regole più stringenti sulla quantità di libri e collane che possono essere messe in sconto anche una volta l'anno. La seconda parte è quella più criticata e criticabile in generale un po' da tanti soggetti diversi, che è quella della promozione della lettura, che per come è stata ingegnata in questa legge si presume sarà molto poco incidente, cioè uno stanziamento oppure un reindirizzamento di alcuni fondi del Ministero della Cultura e del Ministero della Pubblica Istruzione a favore delle librerie indipendenti. Nei prossimi 3 anni saranno circa 10 milioni di euro l'anno e saranno dei fondi che andranno a finanziare l'attuazione di un piano nazionale per la promozione della lettura e a incentivare, a dare degli incentivi fiscali per le librerie. In particolare, per quanto riguarda la questione degli sconti, si è detto, insomma, che è una misura che va a aiutare le piccole librerie che fanno fatica a fronteggiare magari grosse catene o anche il mercato digitale, è così? Ecco, questo lo vedremo. Tutta questa parte della legge è una parte che è stata fortemente promossa dal sindacato italiano librerie e cartolibrerie e dall'associazione librai italiani. Sono circa 6 anni che questo tipo di misure viene richiesto dal comparto. Possiamo sicuramente dire che in generale ci andiamo un po' a riallineare a paesi europei come la Francia e la Germania, in cui questo tipo di regole ci sono già da parecchio tempo. Se saranno valide e se porteranno a un abbassamento generale dei prezzi di copertina dei libri, lo vedremo nei prossimi anni, nei prossimi. La domanda che mi veniva invece dall'altra prospettiva, quella del lettore, è: avere meno sconti non può penalizzare la lettura? Sappiamo già che gli italiani leggono poco, questo potrebbe penalizzare? Noi veniamo da una legge precedente, che è la legge Levi, che negli ultimi anni che ha introdotto la possibilità di fare questi sconti, ma che non ha prodotto un incremento dei lettori. Per cui io la trovo molto fallace come idea questa. Gli sconti dagli editori, soprattutto dai grandi editori, sono stati utilizzati in questi anni come uno strumento di marketing, perché far uscire una novità in libreria già con il 15% di sconto è una mossa che è controintuitiva. Ecco, non credo che ci sia nessun altro tipo di merce che ha questo tipo di scontistica. Per cui uno degli argomenti, uno dei cavalli di battaglia dei grandi editori italiani, non a caso il presidente dell'Associazione Italiana Editori, che raccoglie i grandi editori italiani, è lo stesso Franco Levi, che aveva scritto la legge precedente sul libro, quella che adesso viene sorpassata da questo nuovo decreto. Non lo so, dipenderà dagli editori se il prezzo di copertina dei libri subirà anche un minimo abbassamento. Di sicuro in Germania o in Francia, dove non si possono fare sconti come si potevano fare in Italia fino a come si possono fare ancora oggi in Italia, i lettori sono circa l'80% della popolazione, cioè l'80% dei tedeschi o dei francesi legge almeno un libro là. In Italia siamo fermi da un bel po' al 40% circa. Quindi, numeri alla mano, non so quanto questa idea sia giusta. Lo stesso non so quanto questo provvedimento poi sarà importante o trascinante nel far aumentare il numero di lettori. Certo. Bisogna ancora accorciarsi le maniche parecchio e lavorare tanto. Rassegna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Giunni cerca di proteggersi, imparando a non arrendersi, cerca di essere stabile, di rimanere lucido, antisommossa, difende zona. Se scrivi che sono stato qui, mio malgrado qui. Paura, strade come un fiume in piena, sangue attori per il loro film, hanno venduto un massacro, barattano anime guai, non odio razza, salva razza, io non odio, scrivi che sono stato qui, mio malgrado qui. Cercava un bacino di libertà, forse violenta la città, guardando in faccia la realtà. Oh yeah, cercava un angolo di verità, certo violenta, acida, guardando in faccia. anche l'uomo in croce invecchia, rilucidato ad ogni comodo, sai, brucia un proiettile in corpo, muoio, ciao baby, goodbye. Dio, odio razza, sporca razza, odio ancora razza, sporca razza, recita per me. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:31 minuti di questo venerdì 7 febbraio. Buongiorno a voi che siete all'ascolto della nostra rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi. E cominciamo ovviamente subito col tragico incidente ad alta velocità che riempie tanti titoli e giornali questa mattina. Per esempio, il Messaggero di Roma, scambio mortale. Lo scambio è il gioco di parole più diffuso, devo dire, perché va da Napoli al Mattino, lo scambio fatale. Vado all'Avvenire, tragico scambio, insomma lo scambio è il terreno principale di molti titoli d'apertura, mentre il Corriere apre con deraglia il treno, la morte 290 all'ora. Parliamo dunque dell'alta velocità, Frecciarossa si schianta, Lodi, le vittime, i due macchinisti, ed è un vero classico incidente sul lavoro, se volete chiamarlo più correttamente omicidio bianco. Il procuratore, uno scambio posizionato male, Mattarella, fare chiarezza. E Dario Di Vico, sì, nel Corriere della Sera, dal classico articolo di fondo sacrosanto, ma come dire, un po' ripetuto fino a essere in qualche modo logorato, la sicurezza necessaria, che è un titolo che si ripete ogni volta che c'è un omicidio sul lavoro. Dalla Frecciarossa si schianta dunque, morti due macchinisti, 31 i passeggeri feriti, sfiorata una strage, perché nella tragedia la fortuna, se di fortuna si può parlare, che era un treno delle 5, quindi con poca persona a bordo, perché qualche ora più tardi sarebbe stato davvero un massacro. E poi c'è il famoso errore umano, quello che risolve molte cose, perché addossa al singolo tutte le colpe del sistema, perché anche se è stato un errore umano, va da sé che gli errori umani di chi ha posizionato questo scambio, cioè della manutenzione, si commisurano con le privatizzazioni, gli orari di lavoro, i subappalti, i controlli e quant'altro. Quindi dire errore umano è dire tutto e non dire niente. Comunque l'ipotesi, quello dei pubblico ministeri, dopo i lavori di manutenzione non è stato chiuso questo scambio. Il messaggio che deve avere il via libera ai treni 50 minuti prima del disastro. Questo in questo deviatoio, così viene chiamato in gergo tecnico ferroviario, fa seguire i tracciati corretti. Certo che si è messo male, ovviamente scappa la tragedia. E allora trasporti in sciopero 2 ore, non deve accadere mai più, sempre sfogliando il Corriere della Sera. La solidarietà dei colleghi alle famiglie delle vittime, oggi incontro sindacati ferrovie sulla prevenzione. E subito replica ai sindacati la Libero, che col titolo alla Libero, se il treno uccide i sindacati scioprano, non sanno fare altro. Ecco, questa la colpa è sempre dei sindacati, qualunque cosa succeda. Questo è quello che leggiamo da Libero, mentre il manifesto parla di comunicazione errata, manutenzione sotto accusa. Nella notte lo scambio era stato modificato. Nella piattaforma integrata circolazione di RFI, cioè Ferrovie dello Stato Italiano, alle 4.45 è stato comunicato che il deviatore 05 era stato disalimentato e confermato in posizione normale. L'esperto di sicurezza e gli operatori della manutenzione hanno sempre meno tempo per operare sotto pressione di dover dare via libera per far circolare l'alta velocità. Quindi il famoso errore umano, certo, ma se hai dei turni massacranti, dei tempi davvero da Usain Bolt nel lavorare, è chiaro che poi l'errore umano prima o poi ci scappa e diciamo che la colpa delle persone è molto molto relativa. Mentre il giornale apre come il virus del Frecciarossa, qui il gioco di parole col coronavirus è fin troppo scontato, un guasto, un errore fa deragliare un treno, morti due ferrovieri, rischiata la strage, ma c'è Michele Zacchè che è molto preoccupato che qualcuno si ponga degli interrogativi su questa velocità a tutti i costi, e allora no a demonizzazioni, ma la TAV è l'unica opera che fa più ricca l'Italia. Ora naturalmente ed è il meccanismo è all'incontrario, si nota che dove c'è la TAV l'Italia è più ricca e non si nota che dove l'Italia è più ricca ci fanno anche la TAV. Questo è il meccanismo, ma insomma tra causa e effetto. E poi siccome non basta tranquillizzare, la si mette sul poetico, quando il sogno di Icaro diventa il nostro incubo. Questo, abbiamo voluto volare vicino troppo al sole con le ali di cera della TAV, ecco, questa è la metafora, dal volo sulla luna ai treni super veloci, cosa c'entra il volo sulla luna? Niente, ma la storia di una sfida in limiti che può farci precipitare. Questa è l'ala di poetica di Giuseppe Conte dal giornale, che così in qualche modo si libera del problema che privatizzazione fa rima con padroni. Grazie Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. C'è da dire che noi siamo sempre sensibili a dare risalto alle notizie di morte sul lavoro e quest'oggi prendono le prime pagine di tutti i giornali, dal Resto del Carlino, dove deraglia un treno a Lodi, uccisi due macchinisti, 31 feriti, la motrice vola a 290 km orari, e Sandro Neri ci fa un articolo di fondo dove dice la pretesa di viaggiare in sicurezza e ricorda tutti gli standard. Anche Repubblica parla di disastro colpevole, deraglia il treno Frecciarossa, 292 chilometri orari, morti due macchinisti, cui nomi sono Giuseppe Cicciucci, 52 anni, e Mario Di Cuonzo, 59. Il primo incidente mortale di un Frecciarossa in Italia a causa del deragliamento sarebbe la manutenzione sbagliata di uno degli scambi. E c'è Sergio Rizzo che fa un commento e si lamenta del fatto che la rete sia sovraccarica, l'alta velocità ha cambiato la faccia dell'Italia. Sarebbe ingeneroso non riconoscerlo, anche se è più esatto dire la faccia di una parte dell'Italia, perché se Cristo si è fermato a Eboli, come raccontò Carlo Levi, subito dopo la guerra i treni veloci si sono fermati a una trentina di chilometri prima di Salerno. Esattamente, ma l'alta velocità ha cambiato anche il volto delle ferrovie, da ente pubblico che aveva lo scopo principale di far camminare i treni senza badare troppo a come e chi ci stava sopra, ad azienda di quel genere particolare di business che sta sul mercato della competizione con altri competitori. Ma perché tutto funziona alla perfezione, e questo è quasi la conclusione di questo piccolo articolo. Un treno passa ogni 12 minuti e non si deve verificare la minima sbavatura. Un piccolo guasto sulla linea o una locomotiva che va in tilt provoca inevitabilmente ritardi a cascata, e più gli intervalli fra un convoglio e il successivo sono brevi, più la rete è sollecitata alla manutenzione, ci vuole meno tempo e c'è a disposizione per gli intervalli essenziali. Ricordiamo che la rete è stata effettuata nel 1970. E i treni da allora hanno aumentato notevolmente la velocità fino a 300 km orari. Graziano Del Rio, giusto qualche settimana prima dell'insediamento del governo Conte 1, fra le motivazioni del rischio di un aumento dei costi in manutenzione, senza peraltro avere la garanzia della puntualità. Il succo è che nel frattempo, insieme al sogno delle 2 ore e 40 per arrivare da Milano a Roma e delle 2 ore 20, visto che anche la stazione sotterranea di Firenze è sempre sul binario morto, è svanita la certezza che sembrava ormai acquisita, ovvero il superamento della barriera psicologica delle 3 ore. caldo nel bar della stazione. Prima di salire sul vagone suona l'altoparlante, la sua voce indifferente che annuncia il solito ritardo. Guardo la gente che arriva, che parte, si abbraccia, si sbraccia col fazzoletto in mano. Fischia il capostazione, chiudono le porte del treno e ricomincia il viaggio. Da questo serpentone, lo sferragliare pigro delle sue giunture, una musica dolce che mi fa dormire, leggere, sognare, scorrono i chilometri veloci, le case galleggianti in un mare di campagne verdi, casolari con il fumo dei camini e noi sempre più vicini. Corre questo treno, corre tra le terre e il cielo, non si ferma. Verso una stazione e mi batte forte il cuore, so che ci sarai, che mi aspetterai. E vedo il mondo che scorre dietro il vetro, come la pellicola di un film in bianco e nero. Sono un pendolare per amore, perché il mio cuore non ha binari, mi fa deragliare. Roma, Termini, Orvieto, Chiusi, Arezzo, Firenze, Bologna, Milano. È un intercity, la mia seconda casa, ma questa volta il viaggio sarà di sola andata. Corre questo treno, corre tra la terra e il cielo, non si ferma. Verso una stazione e mi batte forte il cuore, so che ci sarai, che mi aspetterai. Corre questo treno, corre tra la terra e il cielo, non si ferma mai, ferma mai. Verso una stazione e mi batte forte il cuore, so che ci sarai, che mi aspetterai. Caldo nel bar della stazione, prima di salire sul vagone. E buon viaggio Cristicchi sul treno. Veniamo dunque al coronavirus, dice il Carlino, primo bimbo cinese aggredito. Il sindaco, quindi siamo nel terzo tema del coronavirus, cioè la psicosi e la stupidità e a volte chi la sfrutta per il razzismo. Il sindaco Merlo, insultato e spintonato da alcuni coetanei, e l'alma mater scopre i segreti del morbo. Tra l'altro il primo contagiato è della Bologna, dell'azienda Vacchi in Cina, quindi dice, IMA, virus, primo italiano contagiato, dice anche il Corriere della Sera questa mattina. E poi abbiamo naturalmente Mattarella in classe contro la psicosi, un bel gesto del presidente Mattarella che va in questa classe romana così gremita, piena di ragazzi anche che vengono dagli altri mondi, in particolare dalla Cina, le loro famiglie ovviamente. La visita nella questa Chinatown, racconta Fabrizio Caccia, romano, nel quartiere Esquilino, bloccati 35 connazionali sulla nave al largo del Giappone. Questo è un po' il resumé che fa il Corriere della Sera. E c'è il Presidente della Repubblica che vede cantare l'inno di Mameli da questi ragazzi, diciamo così in gergo, multietnici, e in realtà con famiglie provenienti da varie parti del mondo. E c'è anche questo bellissimo mappamondo dove i bimbi possono attaccare il paese di provenienza della famiglia per sentirsi cittadini del mondo e cittadini d'Italia. E allora Ministra Zolina, due punti: andare a scuola è un diritto dei bambini, le paure sono infondate, non ci sta la verità. Ovviamente il giornale dell'estrema destra, Mattarella commissario del Parlamento, è arrabbiatissimo La Verità, perché da una parte c'è un messaggio di Quirinale che secondo La Verità è per puntellare il governo, dall'altra la sceneggiata tra gli scolari cinesi per ammonire Pechino furioso dopo il blocco dei voli. Questa è l'interpretazione che dà La Verità, come sempre è una macchina del fango fatta a carta. Ma detto questo, il Corriere va poi al martire che in questi giorni impariamo a conoscere, questo giovane medico che in Cina ha subito dichiarato la paura del contagio, censurato dal governo naturalmente, essendo la Cina tutti gli danti di rimprovero del mondo, penso che tutti i governi avrebbero fatto questo, anzi forse anche peggio. Comunque la malattia uccide il dottor Li, il giovane medico oculista che lanciò l'allarme per primo, censurato dal governo, poi riabilitato, infine il contagio e la morte, dichiarato per morto, poi smentito la morte. Comunque è davvero in condizioni gravissime, vivo o morto che sia, poveretto questo giovane medico. È anche testimonial involontario della prima pagina del Manifesto, un medico in prima linea. È morto Li Wenliang, 34 anni, il medico che per primo denunciò casi di coronavirus, punito e poi riabilitato, era ricoverato all'ospedale di Wuhan, social cinese in subbuglio, ma trae la visita a una scuola multietnica contro i pregiudizi anticinesi. Primo contagiato con italiano, era tra i 56 connazionali in quarantena alla Cecchignola. Se andiamo poi agli aggiornamenti di questa mattina, non ci sono italiani, leggo da un flash d'agenzia, tra i 61 contagiati del coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan, quella al largo del Giappone, in quarantena. E quanto riferito il Ministero della Salute giapponese, le persone contagiate saranno trasportate d'urgenza nei centri di Tokyo, Saitama, Chiba, Kangawa e verranno posti in osservazione. A bordo della nave da crociera, che al momento si trova a Yokohama, nel sud di Tokyo, ci sono 3.700 passeggeri provenienti da 56 nazioni diverse. Naturalmente è comprensibile l'ansia di questi 3.600 passeggeri chiusi in un habitat così isolato per definizione, dove l'aria condizionata gira dappertutto, dove insomma il contagio è molto in qualche modo probabile, e allora c'è appunto dell'allarme. Bloccati, l'odissea oceanica dei marittimi italiani, porti chiusi per 6 navi in Estremo Oriente, a bordo ci sono 35 connazionali, dichiara anche il Fatto Quotidiano. Mentre il Giornale parla del focus sull'economia, che forse avrà riverberi ancora più tragici del coronavirus, che peraltro, lo ricordano molti giornali, ha un tasso di mortalità inferiore a certe influenze tra virgolette normale. Il problema è che c'è un grandissimo livello di possibilità di contagio, quindi aumentano evidentemente anche i morti, non in percentuale ma in termini assoluti, che è quello che conta in questo caso. Il focus, il dragone in ginocchio ora rinuncia ai dazi, parliamo di naturalmente economia e finanza con Rodolfo Parietti, FCA, cioè la Fiat, produzione a rischio in una fabbrica dell'Unione Europea. Sappiamo che la Hyundai in Corea del Sud ha già chiuso la produzione per mancanza di pezzi di ricambio, e a rischio anche questa fabbrica Fiat in Europa. Poi va detto anche che naturalmente c'è il problema in sé, ma c'è tutta la strumentalizzazione del problema tra paese e paese, vedi l'allarme e l'allarmismo catastrofico degli USA per danneggiare il concorrente dragone, e dall'altra c'è anche appunto chi si fa scudo di questa cosa per alcune operazioni di delocalizzazione. Comunque Pechino chiede aiuto agli USA, Lagarde della BCE ammette preoccupazione, e a caccia della cura, e parliamo dunque dell'aspetto sanitario, l'OMS per terapie e vaccino ci vorrà tempo, si usano farmaci anti-ebola, malaria e HIV che sembrano contrastare al meglio per adesso questa malattia. Garattini, interessanti studi sulla clorochina, buoni test in Francia. Quindi questa dichiarazione dell'Università di Pechino, che era stata smentita dall'OMS, viene prima confermata dall'Università del Regno Unito e poi adesso si dichiara interessante, quindi questo ci fa anche sperare appunto in una soluzione entro l'estate del vaccino. Sì, diamo risalto a questo medico oftalmologo cinese bistrattato i primi tempi e poi riabilitato da Xi Jinping. Il dottore oftalmologo Li Wenliang è uno degli 8 medici che avevano cercato di avvertire i colleghi dell'epidemia di coronavirus, ma che erano stati redarguiti dalla polizia locale. Lo ricostruisce il Global Times. Lo scorso 30 dicembre, in un gruppo su WeChat, gli aveva fatto riferimento a 7 pazienti a cui era stato diagnosticato un virus simile alla SARS, e la sorte è esattamente opposta a quella dell'italiano Urbani, Carlo Urbani, che nel 2003, mentre era in Vietnam da noi come consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva certificato il virus della SARS e aveva dato l'allarme mondiale su questa malattia. E in questo momento sui social cinesi, per quel che si può vedere, c'è una grande indignazione perché il governo non ha ancora chiesto scusa per la morte di questo medico e di averlo così tanto bistrattato. Ma ancora sul coronavirus, sempre dalle pagine del Carlino, c'è la notizia del primo italiano che dalla Cecchignola, la caserma dove stavano scontando la quarantena di 14 giorni, è stato portato immediatamente allo Spallanzani. e aveva passato un solo giorno appunto a Wuhan. Lo teniamo monitorato e poi dicono i medici, al largo del Giappone una nave da crociera bloccata, ma se non ci sono nostri connazionali ammalati. Due cinesi ritornati a Taiwan sono risultati positivi al coronavirus, erano stati in Italia nelle settimane scorse. Queste sono le notizie del Carlino. Sul virus continuiamo sulle pagine di Repubblica e si parla di pregiudizi e Mattarella in una visita a sorpresa di una scuola multietnica di Roma, ce lo dice Concetto Lovecchio dalle pagine di Repubblica. E la scuola dei bambini cinesi con le maestre, qui si insegna l'inclusione e i timori sono ingiustificati e Mattarella sembra a suo agio, sciolto per la prima volta nelle rigidità del protocollo, osserva il cartello con la scritta articolo 34 della Costituzione, la scuola è aperta a tutti. Questo è molto bello, commenta con i ragazzi che sventolano i fazzoletti tricolori. Il plauso al gesto del Presidente della Repubblica è bipartisan, Nicola Zingaretti a Luigi Di Maio, a Maria Stella Gelmini, a Virginia Raggi applaudono a Mattarella. Ringraziamo il Presidente Sergio Mattarella per aver fatto visita alla scuola Manin, frequentata da moltissimi alunni della comunità cinese. Veniamo alla giornata difficile, le giornate al plurale difficili del governo, che come la Torre di Pisa si canta che pende, ma chissà se mai cadrà. Per questo punto il dubbio è che la sua debolezza sia la sua forza. Sta di fatto che dai un colpo oggi, dai un colpo domani, prima o poi l'incidente può capitare per la maggioranza, evidentemente, quell'incidente agognato dall'opposizione di centrodestra. Il Dem Fiano, siamo in casa del PD, i decreti sicurezza non funzionano, è l'ora di intervenire. Se è l'ora del mai a quanto punto, perché deve essere uno dei primi punti abrogare i decreti di sicurezza, invece prima non si abrogano, poi si modellano, si migliorano, come per esempio diminuire la multa da 600.000 euro a 50.000 euro per le ONG che violano, che compiono il reato di salvare della gente che affoga. Uno dice, beh, se la multa c'è, se invece fanno una cosa giusta, che cosa stai a montarli? Però insomma, questa è la logica della mediazione d'oltranza, una sorta di logica demenziale del meno peggio che va contro la logica stessa, ma insomma questo è quanto. E poi c'è il tema in più immediato della prescrizione, accordo a tre sulla prescrizione, cioè ci sarebbe Leo che ha fatto questa proposta di arrivare fino alla prescrizione, al processo d'appello, e poi in qualche modo per chi è condannato cancellarla, quindi togliere questa vergogna di chi la longa la scappa, in particolare se è un collegio difensivo molto nutrito e molto pagato, e quindi garantirebbe anche l'impossibilità di processi infiniti, che è il problema, diciamo, l'incubo Enzo Tortora, così diciamo per fare un caso famoso. E invece accordo a tre sulla prescrizione, no di Renzi che resta isolato, PD 5 Stelle Leo blocco dopo due condanne l'ipotesi di un decreto legge. E allora sul decreto legge, e quindi magari sul voto di fiducia, questa mattina leggiamo Renzi che dice governo senza numeri. Sulla prescrizione il governo non ha i numeri, non ha la maggioranza in Parlamento, io questo accordo non lo voto, non posso diventare giustizialista, ha detto Renzi, leader d'Italia Viva a Radio Capital. Va da sé che poi naturalmente chi ha dei familiari del suo giro implicati in inchieste farebbe, diciamo, meglio non pronunciarsi, perché naturalmente il sospetto è immediato che ci sia un fatto anche di interesse non personale immediato, ma insomma di vicinanza. Io non capisco perché il PD si fa dettare l'agenda da Bonafede, perché tradisce le leggi del nostro governo, ha aggiunto, assicurando di non volere far cadere il governo e di non pensare a nessun appoggio esterno. Se ci vogliono buttare fuori, lo dicono, noi non cambiamo idea. Per noi le idee sono più importanti delle poltrone, ha aggiunto. Questi sono i capricci di Matteo Renzi. E allora abbiamo i giornali questa mattina, il dubbio sulla prescrizione, PM spaccati, naturalmente i giornali titolano a seconda dell'inclinazione politica redazionale, qui siamo sul versante Forza Italia Calenda, Davigo sposta equilibri dell'associazione magistrati, vertice di maggioranza, Bonafede e Renzi conferma comunque anche il dubbio, sono lontani. Andiamo in casa 5 Stelle con la notizia, giornale online, il governo non si fa ricattare sulla prescrizione e ora Renzi perde la sua faccia, perde la faccia o si suicida. Beh, può anche uccidere il governo, a dire il vero. Il Riformista, che è assolutamente foglio Renzi e comunque contro i giudici a prescindere, quindi Sansonetti a cordicchio sulla prescrizione, ma Renzi si impunta, dice sul braccio di ferro, questa volta appunto come conferma questa mattina il flash di Renzi e della sua dichiarazione, il Riformista ci prende. E dalla pagina del manifesto abbiamo questo: giustizia, rottura, 5 Stelle, PD, Leo, avanti, sfidano Italia Viva. Una dura nota dei renziani prima del vertice spinge gli altri a rompere gli indugi. In qualche modo diciamo che il braccio di ferro sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. E poi abbiamo il Fatto Quotidiano, prescrizione, le vittime siamo tutti noi, quindi naturalmente siamo in casa del Bonafediani ad oltranza. Da oggi diamo voce a chi ha subito primi reati, poi l'impunità ai colpevoli, come se fosse questo il problema, tra vedere chi ha subito l'impunità da una parte e chi ha subito l'ingiustizia da quell'altra. Il problema è trovare la giustizia. Ma detto questo, comunque si parla delle vittime di Viareggio, del famoso carro merci al GPL. Qual è la giustizia per la mia vita straziata? E allora il Giornale, che naturalmente spera la rottura sul versante prescrizione, un po' perché Berlusconi ci tiene che compagni, insomma, e amici vari del centrodestra amano la prescrizione a prescindere, e un po' perché appunto fa cadere il governo, quindi sarebbe alle elezioni che vede i sondaggi dare la maggioranza al centrodestra. Il PD, la cosiddetta spasta corrotti, l'aveva bocciata e ora la sposa. Il DM avevano definito la legge illiberale, ma adesso il loro governo la difende davanti alla Corte Costituzionale. Sì, Repubblica chiama tutto ciò la battaglia della giustizia. Eliana Milella ci fa il punto della situazione riguardo alla prescrizione. Italia Viva rompe, l'accordo è solo fra PD 5 Stelle e l'EU. Dopodiché i renziani dicono: se il ministro Bonafede si è stancato di noi, lo faremo riposare, e quindi minacciano anche la struttura del governo. E nella pagina successiva invece c'è un punto della situazione su vari altri nodi che secondo Repubblica sono al centro delle contestazioni fra le varie parti in gioco del governo, fra cui il fisco e lavoro, dove Italia Viva è l'unica che praticamente che vuole salvare il Job Act, il partito di Renzi, e parallelamente vuole passare a 3 aliquote del fisco con un minimo esente e detrazioni da 8.000 euro per ogni componente della famiglia. E naturalmente le cose restano tutte da definire, e c'è un retroscena di Tommaso Ciriaco che ci parla di Renzi che minaccia l'appoggio esterno. Conte invece è pronto a raccogliere le minacce, dice: l'appoggio esterno al governo, che culminerebbe con il rito dei due ministri di Italia Viva, pretendono il rinvio della riforma della prescrizione, non ascoltano ragioni, non accettano la mediazione proposta dal Premier. Avvertimento che non viene pronunciato al tavolo tecnico, riunito fino a tarda sera a Palazzo Chigi, ma soltanto nei colloqui di alto livello con il Premier. Un modo per tenere ancora aperto uno spiraglio di mediazione prima che tutto precipiti. Questa era Repubblica. E La Stampa ci parla invece che sulla prescrizione stop solo dopo l'appello. C'è Francesco Bei e Ilario Lombardo che vogliono svelare dei retroscena. Ci dice che i renziani sono pronti a sostenere più avanti la sfiducia a Bonafede presentata da Forza Italia. Sempre Italia Viva e Matteo Renzi, dopo aver bloccato la legge sull'Airbnb, che in qualche modo rendeva più complessa il cambiamento urbanistico, la gentrificazione dei centri storici italiani, in Senato, secondo Gianluca Roselli, giornalisti, Renzi blocca la legge anti-intimidazione, quindi Italia Viva fa sentire la sua voce. Liti temerari, stop di Italia Viva al testo che regola le richieste di risarcimento alla stampa. Ma il 5 Stelle, veniamo in casa del Movimento, il 5 Stelle vuole alzare ancora il tiro, dice Emanuela Buzzi dal Corriere, ma non tutti sono per la piazza, accelerazione su autostrada, assist di Palazzo Chigi, e coerenti con le loro battaglie. Ma c'è lo sfogo di Zingaretti, quindi entriamo in casa Dem, sulla mobilitazione 5 Stelle, così ci logoriamo tutti, cioè Zingaretti non ci sta che i 5 Stelle siano preso di lotta e tra virgolette di governo. Nel frattempo abbiamo il Giornale che ci racconta sul caso Morandi, il famoso ponte crollato a Genova. Si stufano anche i Benetton, licenziato l'odiatore Toscani. Il gruppo dà il ben servito al suo fotografo con le parole sulle vittime del ponte: impossibile collaborare ancora, perché chiaramente sono lì che lottano per la concessione. E poi, con una certa soddisfazione, ma non sono gli unici, quelli del centrodestra, con una certa soddisfazione, questo sorprende, leggiamo: 30 manifestanti in piazza Scampia, le sardine ora collezionano soltanto dei flop. Diciamo che fuori casa Scampia non ha funzionato, e allora c'è chi dice: beh, meno male che siamo al tramonto delle sardine, così in piazza non ci va più nessuno, ci va solo Salvini, e magari siamo tutti più contenti. Detto questo, tra prescrizione, sardine e quant'altro, abbiamo altro intervento. Sì, perché è contraddittoria questa cosa, perché nelle pagine riservate alla politica, dove si parla appunto del flash mob di Scampia nel quartiere di Napoli, che non ha richiamato tantissime sardine, però c'è l'aspetto positivo, e infatti il governo apre alle sardine con i primi incontri con i ministri. La settimana prossima vedranno Provenzano e Boccia, diplomazia e lavoro, e per la data con Conte il 16 saranno a Roma con una nuova manifestazione antipopulista. E ancora un'altra questione che riguarda la politica: la grillina Ruocco, dopo le gaffe su Banca Italia, quando chiese al governatore della Banca d'Italia dove era la cassaforte con i lingotti d'oro, adesso è diventata appunto funzionaria delle agenzie delle entrate, la fedelissima di Beppe Grillo, e dovrà vigilare sulla commissione banche. Nel frattempo, sul milleproroghe, ancora la Repubblica, leggiamo che saltano i fondi per la casa delle donne. A petizione di principio sono tutti a favore della questione delle donne per la loro sicurezza, ma nella concretezza, quando si va nel portafoglio, Lega e 5 Stelle bocciano l'emendamento che stanziava 900.000 euro per la storica sede delle femministe. Questo è il quadro generale, in una situazione comunque ancora campeggia prescrizione o non prescrizione, con i niente di Matteo Renzi. La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti faccio sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Vedo scelto. Da Caterina Caselli veniamo invece al tema ambientale, sempre presente nella nostra rassegna stampa, e non potrebbe essere diversamente, e cominciamo questa volta dall'Argentina. col manifesto Claudia Fanti. Dopo la vittoria di Mendoza dilaga il no ad estrattivismi e terricidi. Argentina, i Mapuche, il popolo Maciute in prima fila con il Parlamento dell'acqua. Di cosa si tratta? Andiamo a leggerlo più in dettaglio nell'articolo del manifesto stesso. La vittoriosa lotta popolare di dicembre contro lo sfruttamento minerario della provincia di Mendoza non è rimasta un caso isolato in Argentina. Anche nella provincia di Chubut, in Patagonia, la popolazione è sul piede di guerra contro l'estrattivismo, appoggiata da organizzazioni ambientaliste di tutto il paese che martedì hanno manifestato per le vie di Buenos Aires il grido «fuori le imprese minerarie dall'America Latina» e anche «l'acqua vale più dell'oro». Non è dello stesso parere Trump, per esempio. Comunque, noi che abitiamo i territori sappiamo che l'estrattivismo porta solo miseria, distruggendo la salute dei popoli e del pianeta. Scrivono così l'organizzazione contro il governo nazionale, accusato di volere promuovere in tutto il paese nuovi progetti di estrazione di oro, argento, litio e rame. Questo è in Argentina. A casa nostra, invece, coniugando ambiente e lavoro, vado alla pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che segnala ex Silva ai supplementari, quindi la questione che intreccia produzione ed inquinamento. Governo Mittal, la multinazionale franco-indiana, un passo dall'intesa, ma serve altro tempo. E per gli operai morti di amianto, la Cassazione assolve Riva. Sì, in tema di ambiente cominciamo subito da una notizia locale. Ci sono due associazioni, due organizzazioni, i Friday for Future e i ragazzi che manifestano in piazza oggi alle ore 15 insieme al comitato Aria Pesa. Alle ore 15 ci parlano di micropolveri e macro problemi. Il limite giornaliero delle polveri sottili, le PM10, nell'Unione Europea ha stabilito per 50 microgrammi per metro cubo. A Bologna, all'inizio del 2020, il limite è già stato sforato per 11 volte. La salute umana nell'atmosfera, le polveri ancora più sottili delle PM10, le PM2,5, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il limite sarebbe 25. Questo limite è stato superato a Bologna 17 volte. Nel 2020 Bologna si conferma una delle città più inquinate d'Italia, arrivando a superare il doppio dei limiti consentiti dalle polveri nell'aria. Gli effetti del particolato atmosferico sulla salute sono gravissimi. Il particolato PM10 può causare numerose patologie, asma, bronchiti, enfisema, patologie cardiovascolari e tumori. Le reazioni tra esposizione alle PM2,5 a rischio mortalità, cardiopatia ischemica, malattie cardiovascolari, cancro al polmone e infezioni respiratorie. Questi sono i dati di cui parleranno sotto il voltone del Palazzo del Podestà, appunto, queste due associazioni, Aria Pesa e Friday for Future, alle ore 15, una delle iniziative dei Friday for Future e dei ragazzi. Repubblica invece, nelle pagine dedicate alla cultura e all'ambiente, presenta un nuovo libro uscito in questi giorni a cura di un filosofo francese, Baptiste Morisot, per le edizioni Notte Tempo, che si chiama Sulla pista animale, e spiega come l'uomo dovrebbe inforestarsi, cioè intrattenere rapporti sociali con animali e vegetali che abitano nel mondo, e questo vuol dire seguire le tracce e aprirsi a loro. Sulla pagina invece della Stampa troviamo un allarme lanciato dalla regione Piemonte, dove questa primavera anticipata attira lepidotteri e insetti divoratrici degli alberi. Il coleottero e le farfalle che praticamente sono voraci. E ancora nelle pagine della salute del Resto del Carlino, gli adulti sono cattivi maestri dei ragazzi, ed è uscita un'iniziativa che fa un monitoraggio di quanta frutta mangiamo e nonostante le campagne di sensibilizzazione e indubbi benefici, siamo sempre scarsi nelle vitamine, e soprattutto diamo una cattiva educazione noi adulti ai ragazzi.

10-13 minuti, continuiamo con la cronaca. Le motivazioni della Corte d'Assise sul caso di Stefano Cucchi, arrestato per spaccio il 15 ottobre dai carabinieri, e il 22 ottobre morì in ospedale per via delle percosse subite in caserma. Cucchi stava bene, lesioni fatali. Le motivazioni sono queste: il pestaggio subito in caserma ha provocato patologie mortali. Quindi viene dato completamente ragione alla ostinazione, voglia di libertà della famiglia e della famiglia Cucchi stessa. Ingiustificabile la reazione detenuta dei due carabinieri, fu illecita e anche ingiustificabile. Questo è quanto. Invece veniamo ai fascisti. Svastica sul murale del liceo Copernico, racconta il Corriere di Bologna. Non la cancelliamo, la preside è meglio lasciare lì un messaggio per gli autori, tra deficienza e malafede. E a proposito di questo, il Carlino Bologna invece ci racconta che foibe, fiaccolate di Fratelli d'Italia in polemica con l'Ampi. C'è stato un convegno sulle foibe promosso dall'Ampi, già questo per il giornale della destra era scandaloso, e adesso invece diventa anche una fiaccolata. I partigiani, dice le Fratelli d'Italia, hanno rivisto al ribasso i numeri e dell'eccidio inaccettabile. Naturalmente abbiamo la vicenda dei partigiani che hanno fatto questo convegno e hanno in qualche modo messo le cifre a posto, al di là delle esagerazioni sensazionalistiche che ci ha fatto la destra in tanti convegni seguiti da molti giornali. Ma è curiosa anche la dichiarazione strumentalizzare, come se stessimo parlando di Bibbiano. Ora, chi è che ha strumentalizzato Bibbiano? Francamente, devo dire, la prima gallina che canta ha fatto l'uovo. Però questo ci porta oggi pomeriggio alla parlando di resistenze, studi dell'istituto Parri per gli studi sulla resistenza, ci porta alla pagina dei convegni, perché alle 18 c'è un convegno sulla generazione che degli anni 70, una generazione che ha perso, diciamo, riguardando anche i risultati di oggi. Un convegno dalle 18 in poi in via Sant'Isaia col coordinamento di Fabrizio Billi, quello dell'archivio Marco Pezzi. Ve lo segnaliamo per chi fosse interessato all'argomento. Nel frattempo, altre notizie di cronaca le prendiamo dalle pagine della Stampa. A Milano il tribunale ha trovato finalmente l'accordo sul divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. E ancora Siracusa, c'era una fabbrica di falsi invalidi e anche 17 medici sono fra gli indagati e sono stati beccati attraverso telecamere che filmavano i loro incontri. Sul riguardo a Genova e il Ponte Morandi, Benetton chiudono i rapporti con il fotografo Oliviero Toscani, che aveva fatto delle affermazioni contestabili nei giorni scorsi appunto riguardo il Ponte Morandi. E invece riguardo alla cronaca, Repubblica si addentra molto sull'immagine di Sanremo e ci parla di Roberto Benigni e dello show dove ha citato appunto il testo di Francesco d'Assisi, l'amore completo, entra accompagnato dalla banda, percorre il red carpet e conquista il palco. Roberto Benigni illumina la serata dei duetti, era stato al festival 9 anni fa e ora ha fatto un recital sul Cantico dei Cantici. Ancora un'altra questione che riguarda Sanremo, nelle pagine della Cultura, sempre Repubblica mette a confronto due libri che parlano di Sanremo, uno di Marino Bartoletti che è un almanacco che parla dell'Ariston e uno della nostra conoscenza Eddie Anselmi, il libro che si chiama Il Festival di Sanremo, che racconta tutto il festival in modo molto didascalico, molto approfondito, ed è molto bravo come giornalista e scrittore il nostro Eddie Anselmi. E allora non può mancare in tempo reale gli italiani che guardano Sanremo, tutti, nessuno escluso. Io, come diceva io, il guardiacaccia del Marchese di Lampedusa, no, però tutti. E non si discute. Sanremo 54,5 di share per serata delle cover. i duetti con le cover eccetera, ma c'è l'abbonato Rai Sanremo che meraviglia, dice dal resto del Carrino di Bologna. Si tratta di Roberto Poluzzi, 87 anni, premiato per la sua fedeltà. La risposta da Amadeus: quando paghi il canone una volta, poi lo paghi sempre. Questo è l'entusiasmante dibattito che compare sul Carrino di Bologna. E se l'avanscena di Sanremo non è particolarmente entusiasmante, il retroscena ancora meno, perché leggo di Sanremo sfruttamento. Sentiamo le parole della sindacalista Manuela Bizzi su questa vicenda, che magari non è che proprio va in scena all'Ariston. Il problema è che quell'orchestra sostanzialmente viene formata per, specificatamente per il festival, attinge in parte a dei lavoratori che provengono dalla RAI piuttosto che dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è un'orchestra riconosciuta dallo Stato, che è comunque in difficoltà anche quell'orchestra. Quindi sostanzialmente a questo si aggiungono degli aggiunti che arrivano normalmente con la partita IVA, contrattano un compenso forfettario che negli anni, perché non è una novità di quest'anno, sono parecchi anni che c'è questa situazione. Che per me oggi, cioè, abbiamo deciso di uscire perché è intollerabile che si continui in questo modo. Diciamo che negli anni passati i cachet erano piuttosto alti, per cui insomma trovavano, c'era la possibilità di discutere. Adesso si sono risolti sostanzialmente a dare un compenso forfettario di 1900 euro per 40 giorni, per un orario peraltro gigantesco, perché ovviamente loro in una condizione così devono provare, poi c'è lo spettacolo eccetera, però è chiaro che anche per un musicista fare un lavoro così protratto per tante ore rischia di subire dei danni fisici. Lei l'ha sintetizzato anche con la paga giornaliera di 50 euro al giorno, però giornate lunghe. Sì, chiaramente sì, perché loro cominciano verso la tarda mattinata e vanno avanti fino alla fine, se fanno prove, fino a quando finiscono le prove, se c'è lo spettacolo, fino a 1:30, perché questo Sanremo qui tra l'altro si protrae lunghissimo, ma questo è un tema serio riguardo alla salute dei musicisti, è molto serio, cioè non se ne parla molto, ma un musicista negli anni subisce dei danni fisici per la sua attività, quindi obbligarli a fare, diciamo così, tante ore è chiaro che è anche molto pericoloso dal punto di vista della loro salute. Sostanzialmente, visto le tante ore che lavorano, prendono meno di 5 euro all'ora, insomma, per intenderci. No, mi immagino che chi va a fare pulizia a Sanremo guadagni di più, cioè, ma poi il problema è che chiaramente qui negli anni, ripeto, il compenso è sceso, perché prima si parlava di compensi dignitosi, adesso questo compenso è sceso, quindi lì scatta il meccanismo che hanno questi lavoratori, che sono sostanzialmente dei freelance, che sono disponibili ad accettare qualsiasi posto di lavoro, qualsiasi situazione pur di esserci. E questo appunto è il retroscena di Sanremo, che appunto è ancora meno entusiasmante che l'avanscena, diciamo così. E allora la pagina internazionale vede il Trump strafottente, perché con la maggioranza del Senato non è stato nemmeno processato, quindi viene stato assolto ante litteram. Trump l'ha riscosso dopo la soluzione: ho preso di mira da persone orribili, accuse, insulti ai democratici, che è il suo stile, no? Sa solo accusare e insultare. La leader avversaria di Pelosi ha stracciato la Costituzione. C'era anche la Meloni in America, peraltro. Meloni, missione americana, ho chiesto ai repubblicani perché sostengono Conte. Noi alleati, ma da patrioti. Quindi c'è ancora un po' di Mare Nostrum nell'orgoglio del mondo dei Fratelli d'Italia. Rapporti soldi con Trump, perché si assomigliano molto tra insulti e estrema destra. Sul versante del Trump tracotante del manifesto, l'impeachment è stata una vergogna, e c'è appunto la vicenda dei candidati Demme allo sbaraglio, perché appare che nel caucus c'è questo elemento che si riconteranno di nuovo da capi voti, perché sembra che la differenza tra il primo Buttigieg, Pete, e il secondo Sanders, Bernie Sanders, c'è lo 0 e qualcosa per cento di differenza nell'ultimo conteggio, quindi è chiaro che si riconta ancora, perché anche simbolicamente la cosa è molto rilevante, chi arriva per primo, chi arriva secondo rispetto a una proiezione giornalistica. Ma siccome il cavallo di battaglia dei moderati, Joe Biden, ormai fuori gioco, si punta tanto non su Pete, perché sì, è anche moderato, ma naturalmente essendo gay non piace molto a tanti elettori, anche democratici, nella contesa con Trump. E allora eccolo qua, tattiche dollari, Bloomberg è pronto, era un repubblicano. Siccome gli sta un po' così sul gozzo Trump, è passato tra i democratici, ma è comunque un gran conservatore. L'ex sindaco di New York aspetta marzo, ma ha già speso 314 milioni e raddoppierà. Negli spot mostra del Donald grasso e goffo, la base democratica però è pronta a votarlo, anche perché sembra che la base democratica sia molto inclina verso la sinistra, perché se messo i voti di Bernie Sanders e quella della Warren, si va oltre il 50%, almeno appunto, chiaramente è una base che partecipa alle primarie, poi l'elemento votante nelle elezioni è un altro. Andiamo allora agli attacchi agli israeliani, la risposta di Hamas. Questo è Davide Frattini, in questo racconto che è una narrazione dir poco strabica, se non malavitosa, che fa nei giornali la questione israelo-palestinese. Gli estremisti palestinesi contro il piano Trump, e tre episodi, 14 militari feriti tra Gerusalemme e Cisgiordania. Naturalmente non ci racconta che il giorno prima hanno assassinato un giovane palestinese colpito al cuore con un proiettile, e quindi sempre Hamas che attacca e sempre Israele che si difende, ma insomma, e occhio per occhio, solo che sono due occhi palestinesi e ciechi sono gli israeliani, questo è il quadro. E tant'è che poi, a proposito di questa grande democrazia nel Medio Oriente, il manifesto con Michele Giorgio ci racconta l'odissea di Bakri nelle aule di tribunale israeliano. È un'intervista che va al regista palestinese che da 18 anni è nel mirino per aver girato Jenin Jenin, un video che ha girato molto per il mondo. Michele Giorgio, fino all'ultima udienza, accuse assurde per punirmi, ma io non mi arrendo, dice lui, testardo, Mohamed Makrid. Questo è, nel frattempo, raid notturno, a Jenin si continua a morire. Due palestinesi, un adolescente e un giovane poliziotto, un'autorità, sono stati uccisi da militari israeliani. Ma questa cosa non le trovate sui giornali, trovate solo la violenza di Hamas. Quindi, per cui dicevo, strabico a dir poco malavitoso. Nel frattempo, in Olanda si mette fuori la legge Siri, l'algoritmo che per gli aiuti pubblici schedava in segreto i cittadini. È il problema appunto della privacy e l'elettronica. Usato per il welfare, valutava l'affidabilità degli utenti rubando dei dati. Questo è il tema che arriva dalla pagina del manifesto ancora, e finisco col Fatto Quotidiano, perché ci va prima in Turingia, laddove presidente per un giorno solo, via il traditore amico dell'AfD, cioè eletto i voti dell'estrema destra nazista, questo della CDU, viene sconfessato dalla Merkel, quindi caso unico dal dopoguerra. Kemmerich, liberale della Turingia, era stato eletto grazie all'estrema destra, il suo leader Lindner lo ha silurato. Diciamo che il centrodestra tedesco, a differenza di quello italiano, non accetta i nazisti. Questo, di quello italiano gli va benissimo, Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, Fratelli d'Italia, invece da quelle parti invece non gli piace. E poi vado in Irlanda, questa che si voterà tra un po', Sabrina Provenzani, Irlanda, urne a sorpresa, i nazionalisti di sinistra, così chiamano il Sinn Féin, sbancano i sondaggi, ma vai, viene da dire, no, rimaniamo cronachisti. Il Sinn Féin, ex braccio politico dell'IRA, fa saltare i piani di due partiti tradizionali, cioè laburisti e conservatori, ma si vincerà, non avrà i numeri e gli avversari escludono alleanze, ancora un po' una volta, un po' come in America un Bernie Sanders, piuttosto che avere i socialisti, fanno accordo con l'estrema destra. Sì, ieri ho assistito a un'intervista a un allevatore di pecore che è esattamente col suo allevamento sulla linea di confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, e faceva riferimento alle tasse che deve pagare. Da un lato sono il 20%, dall'altro il 43%. Ma ritorniamo un passo indietro e parliamo ancora di Medio Oriente attraverso le pagine della Stampa, perché c'è Giordano Stabile, inviato da Beirut, che ci fa il punto. La Cisgiordania si infiamma e di colpo, nel giro di 24 ore, estremisti palestinesi mettono a segno tre attacchi, mentre in scontri sempre più violenti l'esercito israeliano uccide tre manifestanti, compreso un poliziotto dell'autorità palestinese. Noti che anche la Stampa mette da una parte terroristi o palestinesi, estremisti, d'altra parte scontri. Non meglio di precisato, scontri. Questo è il linguaggio giornalistico moderno. C'è poi un'intervista di Paolo Mastrolilli, inviato a Washington. Il problema è che quell'orchestra... Inviato da Washington, intervista Morgan Ortagus, portavoce del Dipartimento di Stato, e la quale dice: non avremo mai la pace con risoluzioni ONU, ma solo con trattative fra le parti. Per la prima volta Israele accetta di creare uno Stato palestinese, e questo già è un primo passo verso un processo concreto. Ancora altre dall'estero, questa è dalla Spagna, Francesco Olivo. Sanchez in visita al presidente catalano Torra, ora inizia il dialogo. Jordi scarcerati, sono passati quasi 30 mesi e sembra una vita, e proprio in prigione è arrivato ieri il primo segnale. Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, i due attivisti in carcere da 2 anni e mezzo, condannati per le manifestazioni del 2017, dovranno restare in cella soltanto di notte. Decisione dell'amministrazione penitenziaria, ma che non dispiace al nuovo governo di coalizione che ha puntato sul dialogo. Ancora una notizia dal Brasile: Bolsonaro lancia una nuova legge per sfruttare i territori dell'Indios. Appunto, inviato al Congresso un disegno di legge per permettere le attività minerarie all'interno delle riserve indigene, comprese quelle dell'Amazzonia. Si tratta di una promessa del leader di estrema destra, che aveva già fatto in campagna elettorale e che ha ribadito più volte in nome della necessità di dare maggiore sviluppo all'economia brasiliana. Economia che poi va divisa in quattro persone alla fine. E ancora altre notizie dall'estero le andiamo a prendere dalle pagine di Repubblica, che ci dice, appunto, ci fa il punto sull'Irlanda e sulle recenti votazioni. E ancora si parla di Regeni e l'Egitto. L'Italia vende due navi all'Egitto e si perde la credibilità. C'è ancora questo appello da parte dei genitori di Giulio Regeni nei confronti del governo italiano perché tolga l'ambasciatore, appunto, al Cairo. Il governo italiano si prepara a vendere due fregate, la FREM, le navi più moderne della flotta militare italiana, all'Egitto, il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Il tutto mentre è aperto da 4 anni il contenzioso sull'assassinio al Cairo del ricercatore Giulio Regeni, mentre in Italia, almeno a parole, e in Libia continua a dire e sostenere il governo di Tripoli il presidente Fayez al-Sarraj, lo stesso governo che è sotto assedio militare dalla milizia generale di Haftar, armata teleguidata proprio dall'esercito di al-Sisi. Quindi, più che il digiuno poté il danaro, i nuovi conti Ugolini internazionali. Noi ci congediamo con la rassegna stampa, 10:29 minuti, risentirci domani sempre a questa ora. Ciao a tutti. Ciao.